ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Martin andò a cena, cercando di essere gentile con un grasso venditore di carni all'ingrosso e sua moglie ancora più grassa di lui. Tipi importanti quelli che avrebbero facilmente potuto essere utili a un giovane promettente come Hermann von Schmidt. E per trascinare i due commercianti nella casa di quel giovane c'era voluta un'esca non minore di un cognato famoso. Seduto a quel tavolo c'era un altro tipo che aveva ingoiato la stessa esca ed era il responsabile capo per la costa del Pacifico delle concessionarie di una fabbrica di biciclette, l'ASA. Era lui che von Schmidt desiderava compiacere e propiziarsi, perché da quell'uomo poteva ottenere l'esclusiva per Oakland delle biciclette ASA. E così Hermann von Schmidt decise che era redditizio avere Martin come cognato, anche se nel profondo del suo cuore non si spiegava i motivi di quel successo. Aveva vegliato silenziosamente molte notti mentre sua moglie dormiva, affannandosi sulle pagine dei libri e sulle poesie di Martin, per poi concludere che il mondo doveva essere pazzo per comprare cose simili. Martin, nel profondo del suo cuore, comprendeva quella situazione fin troppo bene. Si era lasciato andare contro lo schienale della sedia e fissava la testa di von Schmidt, fantasticando di ammaccargliela tutta a pugni, di mandare a segno un colpo dopo l'altro quel testone di un crocco. Però in quell'uomo c'era qualcosa che Martin apprezzava. Povero com'era, determinato a farsi strada com'era, nonostante tutto, aveva assunto una domestica per sollevare Marian dai lavori più pesanti. Martin parlò con il responsabile capo delle concessionarie ASA e, dopo cena, si appartò con lui e con Hermann per sostenere finanziariamente la nascita del miglior negozio di riparazione e vendita di biciclette in tutta Oakland. Martin si spinse oltre. Quando poté parlare in privato con Hermann, gli suggerì di guardarsi in giro per vedere se trovava una concessionaria di automobili con annessa officina che potesse interessarlo. Era certo che suo cognato non avrebbe avuto problemi nel gestire entrambe le officine con successo. Al momento di separarsi, Marian, con gli occhi pieni di lacrime e le braccia intorno al collo del fratello, gli disse che gli voleva bene, che gli aveva sempre voluto bene, e mentre lo diceva ci fu una percettibile interruzione che Marian cercò di nascondere intensificando le lacrime, i baci e i balbettii incoerenti. Martin lo lesse come il tentativo della sorella di chiedergli perdono per il tempo in cui non aveva avuto fiducia in lui e aveva insistito perché si trovasse un lavoro. Non riuscirà mai a conservarsi quei soldi, questo è poco, ma sicuro, confidò Hermann von Schmidt a sua moglie. Quando ho cercato di parlargli di interessi, si è infastidito e ha mandato al diavolo il nostro debito. Mi ha detto che se ne parlavo ancora, avrebbe preso a pugni la mia testa da crocco. Ha detto proprio così, la mia testa da crocco. Ma è un tipo a posto, anche se non ha alcun senso degli affari. Mi ha offerto una possibilità. È proprio una brava persona. Martin era subissato dagli inviti a cena, e più ne era subissato, più si lambiccava il cervello. Se ne stava seduto, l'ospite d'onore, al banchetto dell'Arden Club, circondato da uomini importanti dei quali Martin aveva letto e sentito parlare per tutta la sua vita. E adesso quegli stessi uomini gli dicevano che quando avevano letto Il suono delle campane sul Transcontinental e La perla su The Hornet, avevano subito capito che Martin Eden era un vincitore. Dio Dio! Martin pensò tra sé e sé. E io ero affamato e vestito di stracci. Perché non mi avete offerto una cena allora? Quello era il momento. Avevo già scritto tutto. Se ora mi date da mangiare per cose che avevo già scritto allora, perché non mi avete dato da mangiare allora, quando ne avevo bisogno? Non ho cambiato una sola parola del suono delle campane o della perla. No, voi non mi date da mangiare per quello che ho scritto. Mi date da mangiare perché tutti gli altri mi danno da mangiare. E perché è un onore darmi da mangiare. Mi date da mangiare perché siete animali da branco, perché anche voi fate parte della massa, perché oggi nella mente della massa c'è un unico, cieco e automatico pensiero. Darmi da mangiare! E cosa c'entrano in tutto questo Martin Eden e tutte le cose che ha scritto? Si domandò malinconico. Poi si alzò per rispondere con intelligenza e arguzia a un brindisi arguto e intelligente. Così andavano le cose. Ovunque Martin si trovasse, al Press Club o al Redwood Club, in associazioni femminili o riunioni letterarie, c'era sempre qualcuno che aveva letto e si ricordava del suono delle campane e della perla da quando erano usciti per la prima volta, e c'era sempre quella domanda ossessiva e inespressa: perché non mi avete dato da mangiare allora? Avevo già scritto tutto. Il suono delle campane e la perla non sono cambiati di una virgola. Il loro merito artistico, il loro valore sono rimasti sempre uguali, allora come oggi. Ma voi non mi nutrite per quei miei racconti, né per un altro dei racconti o delle poesie che ho scritto. Mi date da mangiare perché la moda del momento è darmi da mangiare, perché l'intera plebe impazzisce all'idea di poter dare da mangiare a Martin Eden. Spesso in quei momenti Martin avrebbe visto aggirarsi all'improvviso nel mezzo della compagnia un giovane teppista con una giacca dal taglio squadrato e un cappello Stetson a tesa rigida. Gli capitò un pomeriggio, quando era ospite dell'associazione Gallina a Oakland. Si era alzato dalla sedia, si stava avviando verso il palco, quando vide entrare a grandi falcate dall'ampia porta sul retro del salone il giovane teppista con la giacca squadrata e il cappello Stetson. Lo sguardo di Martin era così intenso e deciso che 500 eleganti signore, abbigliate alla moda, si voltarono per vedere che cosa l'oratore stesse fissando, ma videro soltanto il corridoio centrale vuoto. Martin guardò il giovane teppista infilarsi in quel corridoio e si chiese se si sarebbe tolto il cappello. Non lo aveva mai visto senza. Il giovane percorse deciso il corridoio e salì sul palco. Martin, se non fosse stato fermato dal pensiero del pubblico davanti a lui, si sarebbe messo a piangere su quell'ombra di se stesso, così piena di gioventù. E l'ombra attraversò con arroganza il palcoscenico e si diresse proprio verso Martin, per poi sparire nel proscenio della sua coscienza. Le 500 donne applaudirono dolcemente con le loro mani guantate, cercando di incoraggiare lo scontroso grand'uomo che era loro ospite. E Martin scacciò la visione dal cervello, sorrise e iniziò a parlare. Il sovrintendente capo delle scuole, un brav'uomo ormai anziano che si rammentava di Martin, lo fermò per la strada e insieme ricordarono quella riunione nel suo ufficio che aveva portato all'espulsione di Martin dalle scuole a causa di alcune risse. «Un po' di tempo fa ho letto Il suono delle campane in una rivista», disse. «Ah, era degno di Poe, splendido», mi dissi leggendolo, «veramente splendido». «Certo. Nei mesi che seguirono mi hai incontrato due volte per strada e non mi hai riconosciuto», commentò Martin, «e poco mancò che lo facessi ad alta voce. Ogni volta ero affamato e la mia meta era il negozio dei pegni, eppure avevo già scritto tutto. Allora, quando mi incontravi, non mi riconoscevi. E adesso perché mi riconosci? Stavo dicendo a mia moglie proprio l'altro giorno, continuava il sovrintendente, se non sarebbe un'idea simpatica invitarla a cena un giorno o l'altro, eh? E mia moglie è stata subito d'accordo con me. Sì, è stata subito d'accordo. Cena? Disse Martin, così bruscamente da sembrare seccato. Sì, sì, una cena, sa, una cosa alla buona con noi, eh? Con il tuo vecchio sovrintendente birbante, che non sei altro, disse il vecchio nervosamente, dando una pacca a Martin in un tentativo di giocosa familiarità. Si presentò da Martin, Kreis, che faceva parte della vera feccia, e Martin lo accolse con sollievo, ricevendo in cambio i brillanti dettagli di un progetto sufficientemente azzardato da interessarlo come narratore, ma non certo come investitore. Durante la sua esposizione, Kreis divagò abbastanza da far sapere a Martin che la maggior parte di quello che aveva detto nella vergogna del sole erano stupidaggini. «Ma non sono venuto qui per discorrere di filosofia», continuò Kreis. «Ciò che voglio sapere è se hai intenzione o no di investire un migliaio di dollari su questo affare». «No, non sono abbastanza stupido per farlo», fu la risposta di Martin. «Ma lascia che ti dica che cosa farò. Da voi ho passato la serata più bella della mia vita. Mi avete dato qualcosa che i soldi non possono comprare. Ora, io sono ricco, ma i soldi non significano nulla per me. Mi piacerebbe farvi avere un migliaio di quei dollari che per me non hanno valore, per ripagarvi di ciò che mi avete dato quella sera, qualcosa che non ha prezzo. Tu hai bisogno di soldi. Io ho più denaro di quanto mi serva. Tu sei qui per questo. Non hai bisogno di escogitare dei piani per averlo. Prenditelo. Kreis, senza tradire alcuna sorpresa, ripose l'assegno ben piegato in una tasca. Per questa somma stipulerei volentieri un contratto per fornirti molte serate simili, disse. Troppo tardi, disse Martin e scosse la testa. Per me quella sera è stata la sera della mia vita. Mi sentivo come in paradiso. Per voi è normale, lo so, ma non lo era per me. Ah, non viverò più ad altezze simili. Ho chiuso con la filosofia. Non voglio più sentirne una sola parola. I primi soldi che la filosofia mi abbia mai fatto guadagnare in vita mia, sottolineò Kreis, soffermandosi sulla porta mentre stavo uscendo, e ecco che crolla subito il mercato. Un giorno la signora Morse incrociò Martin per strada e dalla sua carrozza gli sorrise facendogli un cenno con il capo. Martin sorrise a sua volta e sollevò il cappello. L'episodio non lo colpì. Un mese prima lo avrebbe disgustato, oppure avrebbe stimolato la sua curiosità e lo avrebbe spinto a porsi delle domande sullo stato psichico della signora Morse in quel momento. Ma ora non gli dedicò neppure un altro pensiero e l'istante successivo se n'era già scordato. Se n'era dimenticato. Proprio come si sarebbe immediatamente dimenticato del palazzo della banca centrale oppure del municipio dopo esservi passato davanti. Eppure, in quei giorni, la mente di Martin era straordinariamente attiva. I pensieri roteavano e roteavano in cerchio nella sua testa e il centro di quel cerchio era: avevo già scritto tutto. Quel pensiero gli mangiava il cervello come una larva immortale. La mattina Martin si risvegliava con quel pensiero, di notte la larva lo tormentava nei suoi sogni. Se una qualsiasi questione riguardante la vita che si svolgeva intorno a lui riusciva a penetrare attraverso i suoi sensi, immediatamente si ritrovava connessa a quel pensiero. Avevo già scritto tutto. Martin, con logica implacabile, giunse alla conclusione di non essere nulla e nessuno. Martin Eden il teppista e Martin Eden il marinaio erano stati reali, erano stati lui, ma Martin Eden il famoso scrittore non esisteva. Martin Eden il famoso scrittore era una nebbia alzatasi nella mente della plebe, spinta da quella mente a incarnarsi nel corpo vivente di Martin Eden teppista e marinaio. Non potevano imbrogliarlo. Lui non era quel mitico sole che la plebe adorava, offrendogli in sacrificio inviti a cena. Non era così stupido. Martin lesse gli articoli delle riviste che parlavano di lui. Studiò i ritratti di se stesso che vi venivano pubblicati finché non riuscì più ad associare la propria identità con quei ritratti. Lui era uno che aveva vissuto, aveva provato emozioni, aveva amato, un tipo che non si faceva tanti problemi e che comprendeva la fragilità degli esseri umani. Aveva prestato servizio nei castelli di Prua, vagabondando per terre sconosciute e, ai vecchi tempi delle risse, era stato il capo della sua banda. Era il ragazzo rimasto di sasso quando aveva visto per la prima volta le migliaia di volumi della biblioteca pubblica, il ragazzo che in seguito aveva trovato la sua strada tra tutti quei libri e ne era venuto a capo. Martin Eden era anche quel giovane che aveva lasciato bruciare la lampada d'olio fino a notte fonda, che andava a letto in compagnia di uno sperone e che aveva scritto, a sua volta, dei libri. Ma, di sicuro, lui non era quell'insaziabile ingordo che la plebe si sentiva così incline a nutrire. Nelle riviste, però, c'era anche qualcosa che divertiva a Martin. Ogni rivista, infatti, si vantava di averlo scoperto per prima. Il Warren Smontley fece sapere ai suoi lettori di essere sempre alla ricerca di nuovi scrittori e che, tra gli altri, aveva avuto il piacere di presentare al pubblico Martin Eden. Ma The White Mouse rivendicò per sé la scoperta e così fecero anche The Northern Review e il Macintosh Magazine, fino a quando The Globe non ridusse entrambi al silenzio, disseppellendo dai suoi archivi proprio quelle liriche del mare che i suoi redattori avevano massacrato. Nel frattempo, Youth and Age, dopo aver evitato di pagare alcune fatture, era ritornato in vita. E anch'essa tentò di affermare la paternità della scoperta, ma fu letta solo dai bambini di qualche contadino. Poi, quando le magnifiche cifre pagate da alcune riviste trapelarono all'esterno, i giornali si misero a calcolare a quanto potessero ammontare i diritti incassati da Martin Eden. Immediatamente alcuni pastori delle chiese di Oakland si rivolsero a Martin come fossero vecchi amici, mentre i mendicanti professionisti iniziarono a intasare di lettere la sua posta. In tutto questo scompiglio, quelle che si comportarono peggio furono le donne. Le fotografie di Martin erano state diffuse ovunque e i giornalisti ne avevano ampiamente sottolineato la faccia abbronzata dai lineamenti forti, le cicatrici, le spalle larghe, gli occhi limpidi e sereni e le guance lievemente incavate come quelle di un asceta. Quest'ultimo particolare riportò alla memoria di Martin la sua selvaggia gioventù e lo fece sorridere. Spesso, quando incontrava delle donne, ne avrebbe notata una e poi un'altra che lo guardavano, valutandolo e soppesandolo. Martin ne rise dentro di sé. Poi si ricordò dell'avvertimento di Brissenden e rise di nuovo. Le donne non sarebbero mai riuscite a distruggerlo, di questo era certo. Aveva superato quello stadio. Una sera Lizzie, mentre Martin l'accompagnava alla scuola serale, colse lo sguardo che una donna della borghesia, bella e ben vestita, indirizzava al suo accompagnatore. Lo sguardo fu un po' troppo lungo, un po' troppo attento, e Lizzie ne comprese perfettamente il significato. Il suo corpo si tese per la rabbia. Martin se ne accorse, si accorse del motivo e cercò di calmarla, spiegandole che ormai si era quasi abituato a quegli sguardi e che, comunque, non gliene importava nulla. Invece dovrebbe portartene, rispose Lizzy con gli occhi fiammeggianti. Tu stai male. Ecco, qual è il problema? Stai male. Mai stato meglio in vita mia. Peso quasi 3 chili più di quanto abbia mai pesato. Non c'entra il corpo, è la testa. C'è qualche rotella che non funziona nel tuo cervello. Me ne sono accorto persino io. Io, che non sono nessuno. Martin continuò a camminarle a fianco, riflettendo. Ah, darei qualsiasi cosa per vederti guarire, esclamò Lizzy all'improvviso. Dovrebbe importarti che le donne ti guardino in quel modo. Un uomo come te non è naturale. Non ci sarebbero problemi se tu fossi un damerino, ma tu non sei fatto così, amanti. Aiutami. Sarei felice e contenta, se tu incontrassi la donna giusta, quella che ti fa guarire. Dopo aver lasciato Lizzy a scuola, tornò al Metropol. Una volta nella sua camera, si lasciò cadere in una poltrona Morris, dove restò seduto con lo sguardo fisso davanti a sé. Non sonnecchiava, non pensava. La sua mente era vuota, a eccezione dei brevi intervalli nei quali immagini e ricordi, senza essere stati invitati, prendevano forma e colore e luce sotto le sue palpebre. Martin, pur vedendo quelle immagini, ne era a malapena consapevole, come fossero dei sogni. Eppure non stava dormendo. Una volta si riscosse e diede un'occhiata all'orologio. Erano appena 8. Non aveva nulla da fare ed era troppo presto per andare a letto. Poi la sua mente fu di nuovo vuota e le immagini ripresero a formarsi e a dissolversi sotto le palpebre. Non c'era nulla di particolare in quelle figure. Si trattava sempre di masse di fogliame, di cespugli pieni di rami, attraversati dai raggi di un sole ardente. Un colpo alla porta lo riscosse. E Martin non era addormentato, e la sua mente collegò immediatamente quel suono a un telegramma, una lettera o forse un cameriere che gli portava gli abiti puliti dalla lavanderia. E così disse: «Avanti!» pensando a Joe, al suo vecchio amico della lavanderia, chiedendosi dove potesse essere finito. Martin continuò a pensare a Joe e non si girò verso la porta. La sentì chiudersi dolcemente. Ci fu un lungo silenzio. Si dimenticò che qualcuno aveva bussato e riprese a fissare il vuoto davanti a sé. Quando sentì una donna sospirare. Martin, nel girarsi, notò che quel sospiro era stato involontario, spasmodico, controllato e soffocato. L'istante successivo era già balzato in piedi. «Ruth!» esclamò, attonito e sconvolto. Ruth era pallida e stravolta. Se ne stava sulla porta, tenendovi una mano contro, come per sostenervisi, l'altra mano stretta contro il fianco. Poi le tese entrambi verso Martin in un gesto patetico e fece qualche passo in avanti per andargli incontro, e lui la accompagnò verso la poltrona tenendola per le mani e si accorse che erano gelate. Avvicinò un'altra poltrona e si sedette sul grande bracciolo. Era troppo confuso per parlare. Nella sua mente la storia con Ruth era finita, archiviata. Si sentiva come se la lavanderia dello Shelley Hot Springs avesse all'improvviso invaso l'hotel Metropol con il bucato di una intera settimana pronto per essere lavato da lui. Diverse volte Martin fu sul punto di parlare, ma ogni volta esitò. «Nessuno sa che sono qui», disse Ruth con voce debole, accennando un tenero sorriso. «Cosa hai detto?» le domandò lui. Martin fu sorpreso dal suono della sua voce. Lei glielo ripeté. «Ah!» esclamò lui, e poi si chiese cos'altro avrebbe potuto dire. Ti ho visto entrare e ho aspettato qualche minuto. Ah! Esclamò di nuovo lui. Mai in vita sua Martin aveva trovato così difficile parlare. In tutta la sua testa non c'era neppure un'idea. Si sentiva stupido e goffo, ma non riusciva a pensare a una sola cosa da dire. E poi sei entrata, eh? Disse finalmente. Ruth annuì, con un'espressione vagamente birichina, e allentò la sciarpa che le avvolgeva il collo. Poco fa ti ho visto dall'altro lato della strada, quando eri con quella ragazza. Ah, sì, disse lui semplicemente. L'ho accompagnata alla scuola serale. Ebbene? Non sei contento di vedermi? Disse Ruth, dopo un altro silenzio. Sì, rispose Martin frettolosamente. Ma non sei stata imprudente a venire qui? Sono entrata di nascosto, nessuno sa che sono qui. Volevo vederti. Sono venuta per dirti che sono stata davvero stupida. Sono venuta perché non posso più starti lontana, perché il mio cuore mi ha spinto a venire, perché volevo venire. Ruth si alzò dalla sedia e avanzò verso di lui. Per un istante gli appoggiò una mano sulla spalla, respirando in fretta, e poi si lasciò scivolare tra le sue braccia. E Martin, con quella sua natura facile e generosa, restia a infliggere un dolore, consapevole che veder rifiutata l'offerta di se stessa era la ferita peggiore che una donna potesse ricevere, chiuse le braccia intorno a Ruth e la tenne stretta. Ma non c'era calore in quell'abbraccio e neppure tenerezza in quel contatto. Ruth si era abbandonata tra le sue braccia e lui la sosteneva. Non c'era altro. La ragazza si accucciò contro il suo petto e poi, cambiando posizione, lasciò che le proprie mani scivolassero verso l'alto per riposare sul collo di lui. Martin non sentì la propria carne diventare come un fuoco sotto quelle mani. Al contrario, si sentiva imbarazzato e a disagio. «Perché tremi così?» le chiese. «Hai preso freddo? Vuoi che apra la grata della stufa?» Martin fece per liberarsi da quell'abbraccio, ma Ruth si strinse ancora di più a lui, tremando con violenza. «È solo tensione nervosa», disse battendo i denti. «Mi basta un minuto e riprendo il controllo. Ecco, mi sento già meglio». E lentamente il tremito svaniva. Martin l'abbracciava ancora, ma non si arrovellava più in cerca di una risposta. Ora sapeva perché era venuta. «Mia madre voleva che sposassi Charlie Hapgood», annunciò lei. «Charlie Hapgood, quel tipo che dice solo banalità», grugnì Martin e poi aggiunse: «E ora suppongo vuole che tu sposi me». Non era una domanda, era una certezza. Davanti ai suoi occhi Martin vide danzare ben incolonnate le cifre delle percentuali guadagnate. «Per quello che so, non farebbe obiezioni», disse Ruth. «Ah, mi considera sufficientemente adatto», Ruth annuì. «Eppure non sono affatto più adatto ora di quanto lo fossi quando tua madre ti ordinò di rompere il nostro fidanzamento», fu la riflessione di Martin. «Non sono affatto cambiato. Sono lo stesso Martin Eden, sebbene per certi aspetti sia persino peggiorato. Ho ripreso a fumare. Non senti il mio alito?» In risposta Ruth premette le dita aperte di una mano sulle labbra di lui. Lo fece con grazia e vivacità, in attesa del bacio che, ai vecchi tempi, era sempre giunto. Ma le labbra di Martin non pronunciarono nessuna tenera risposta. Aspettò finché lei non tolse le dita e poi riprese a parlare. «Non sono cambiato. Non ho un lavoro. Non sto cercando un lavoro, anzi, non ho alcuna intenzione di cercarmi un lavoro. Credo ancora che Herbert Spencer sia un uomo grande e nobile e che il giudice Blount sia un inveterato somaro. Ho cenato con lui l'altra sera e quindi posso dirlo con una certa cognizione di causa. Ma non hai accettato l'invito di papà, lo rimproverò lei. Ah, così lo sai. E chi lo ha mandato l'invito? Tua madre?» Ruth restò in silenzio. «Questo vuol dire che l'ha mandato lei. Allora immagino che sia stata lei a mandarti qui». «Nessuno sa che sono qui», protestò Ruth. Credi che mia madre lo permetterebbe? Ah, ti permetterebbe di sposarmi, questo è certo. Ruth si lasciò sfuggire un grido acuto. Martin, non essere crudele. Non mi hai neppure dato un bacio. Sei insensibile come una pietra, nonostante tutti i rischi che ho corso per venire qui. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it